La diretta è stata seguitissima, devo dire, contro le nostre aspettative. L'abbiamo fatta perché tanti nostri clienti e amici ci avevano chiesto di aiutarli nella compilazione dei moduli. Centinaia di persone ci hanno seguito. Pensavamo a una diretta, diciamo, di un'oretta. Ci siamo resi conto che probabilmente questo click day non solo durerà tutto il giorno, ma probabilmente proseguirà anche domani, perché chi sta accedendo adesso si ritrova già davanti 500.000 persone in coda. In questo momento, accedendo al sito buonomobilita.it, attenzione, non buono mobilità accentato, perché è un sito fake che cerca di sottrarre dati, quindi fate attenzione a non mettere la accentata. Ecco, se entrate in questo momento potete prendere un numero di coda, però vale solo se avete già richiesto delle credenziali SPID di identità digitale. Se non avete ancora richiesto le credenziali, mi dispiace dirlo, ma è inutile provarci, perché la procedura delle credenziali SPID, insomma, richiede vari giorni. L'aspetto positivo di questa vicenda è che tante persone vogliono acquistare una bicicletta e muoversi con la bicicletta. Sì, ovviamente la nostra speranza è che questo bonus, oltre a dare un certo impulso al mercato di bici, che non fa mai male, visto che è anche ancora uno dei pochi prodotti, diciamo, anche dell'industria italiana, l'aspetto positivo appunto è che speriamo che tutte queste persone questa bicicletta la usino, non solo persone che magari non ce l'avevano, non l'hanno mai utilizzata, ma può essere utile anche a quelle persone che magari hanno un mezzo poco performante, che diciamo non è di incoraggiamento nell'uso quotidiano, quindi magari può essere l'occasione per comprare una bici più di qualità, che sia, diciamo, più utile negli spostamenti quotidiani, perché molto spesso c'è quest'idea della bicicletta come mezzo faticoso, perché siamo abituati a usare anche biciclette magari un po' pesanti, con qualche problema meccanico, insomma, poi il classico ravaldone bolognese ce lo abbiamo ben presente, magari abbiamo paura del furto, e quindi alle volte anche una bicicletta poco prestante può essere, diciamo, un forte dissuasivo, per cui anche comprarsi una bici più prestante può essere utile per sviluppare la mobilità ciclistica. Il sito ha avuto qualche problema dato l'alto numero di accessi, era una cosa che forse era ipotizzabile, però appunto la riflessione che ti chiedo è se questo poteva essere il metodo migliore per distribuire questi incentivi o ci potevano essere altre strade. L'aspetto che delude molto è che dopo 6 mesi ci si aspettava un metodo che imponesse meno sacrificio di tempo e di sforzo al cittadino, alla cittadina, in quanto, cioè, prima di tutto parliamo di un orario lavorativo, per cui tante persone non hanno la possibilità di stare al computer durante la mattina, chi non fa smart working, chi ha un lavoro in presenza, insomma, quindi già questo è abbastanza discriminante. Ci sono stati tanti mesi di tempo, si sperava in qualcosa di più accessibile, anche perché lo stesso ministro Costa inizialmente aveva promesso che non ci sarebbe stato un click day, quindi che ci sarebbe stata una modalità più inclusiva in cui sarebbe valso soltanto la data di acquisto, per cui i primi che avevano comprato sarebbero stati ripagati. Probabilmente dal punto di vista organizzativo e logistico questo risultato complesso, diciamo che da addetta ai lavori mi sento di dire che da fuori è sempre molto facile criticare, poi bisognerebbe capire, insomma, come mai è stata fatta questa scelta, i cui effetti non sono positivi, ecco, perché il click day, tanto tempo, tante persone non sono riuscite ad accedere, il sito è stato non raggiungibile per tanti utenti in certe fasi già questa mattina. Però ecco, volendo insomma anche spezzare una lancia a favore del governo, era la prima volta che si faceva questo tipo di misura, quindi diciamo è stata un po' una prova generale. È stato promesso che la misura sarà rifinanziata, quindi io credo che comunque sarà utile riprovare chi non è ancora riuscito a prendere un numero in coda, chi ci è riuscito ma è stato buttato fuori, riprovare nei prossimi giorni, nelle prossime ore o anche addirittura nei prossimi giorni, perché comunque ci sono 215 milioni di euro, fino adesso ne hanno erogati soltanto 3 milioni, per cui io credo che insomma ci saranno più occasioni di provare a usufruire di questo buono. Voi come Dinamo avete approntato anche una guida, no, per riuscire a seguire tutta questa procedura? Sì, sul nostro sito dinamo.bo.it potete vedere insomma un po' le nostre istruzioni, perché il buono è diviso in due diverse misure: un rimborso per chi ha già acquistato la bicicletta e invece un buono spesa digitale che copre fino al 60% del costo della bici, fino al massimo di 500 euro per chi ancora deve comprare. In particolare questa seconda opzione penso sia molto interessante per chi magari non l'ha comprata anche perché non aveva la disponibilità economica di anticipare, no, il costo complessivo. In questo modo voi non dovete anticipare nulla, è il negoziante che si fa carico di questo incentivo che poi viene successivamente rimborsato dal governo, per cui potete richiedere il buono spesa digitale totale che poi andrete a spendere in uno dei negozi aderenti. Chiaramente non tutti i negozi hanno aderito, chi ha ritenuto l'ha fatto, Dinamo è tra questi, ma ci sono anche tanti altri negozi di Bologna, per cui può essere un'occasione per farlo in vista di questa seconda ondata di Covid-19 che chiaramente ha di nuovo messo in crisi il trasporto pubblico, e quindi sappiamo che la bicicletta può essere anche quella elettrica, per esempio per chi ha delle distanze un po' più impegnative, può essere una buona soluzione, e con questo bonus insomma è un aiuto in più.